il 16 novembre bonifichiamo l'aria delle ex officine di Cosenza con la musica resistente. Concerto al CPO Arials dei 99 Posse. Sostieni le lotte sociali, sostieni gli spazi occupati, sostieni il CPO Arialzo. Per maggiori informazioni visita la pagina Facebook del Rialzo.